i nostri online. Allora, parlerò un po' della piattaforma, cosa c'è, cosa sta succedendo, dirò poche cose e poi eventualmente se ci sono delle domande naturalmente cercherò di rispondere. Quindi Sloop2Desk, il nome chiaramente lo conoscete. Abbiamo una serie di obiettivi di cui si è fatto cenno che possiamo vedere un attimo più nel dettaglio. Gli obiettivi formativi dell'attività didattica sulla piattaforma che è sia la piattaforma lombarda sia la piattaforma siciliana hanno esattamente lo stesso, la stessa impostazione, gli stessi obiettivi, gli stessi materiali e tutto quanto. Quindi il primo modulo, abbiamo detto, era quello già detto poco fa, dedicato alla conoscenza dell'utilizzo di Moodle come ambiente di e-learning, come piattaforma, come si usa dire. E quindi in questo modulo i corsisti hanno imparato fondamentalmente ad usare la piattaforma Moodle sia come studenti sia come docenti, facendo delle prove, inserendo dei materiali, cioè utilizzandola come un docente lo utilizza con i propri alunni. Adesso non sto qua nel dettaglio a leggere naturalmente tutte cose. Poi eventualmente posso specificare se ci sono delle esigenze specifiche. Il modulo 2 era un po' più dedicato, anzi diciamo decisamente dedicato a quello che viene chiamato social network e comunque all'utilizzo degli strumenti che la rete ci mette a disposizione per fare formazione, per fare didattica. Questo è stato un modulo sviluppato fondamentalmente dal METID, dove i partecipanti hanno molto fortemente collaborato tra di loro. È stato, diciamo, in questo momento, credo, il modulo formativo che ha visto la maggiore proprio collaborazione tra i partecipanti. Questo modulo 2, insieme poi alla prima parte del modulo 3, che è più centrato sul web 2.0, rispondono all'esigenza di apprendere ad utilizzare gli strumenti del web 2.0 per fare didattica. E quindi sia strumenti per la creazione di contenuto, ma soprattutto strumenti per la collaborazione tra chi è coinvolto nel processo di apprendimento. In aggiunta al modulo 3 c'è la parte relativa ai learning oggetti di insegnamento, che sono degli oggetti, diciamo, intesi in questo modo dal punto di vista informatico, nel senso che sono dei contenuti che però sono, per così dire, impacchettati con dei sistemi di metadatazione e qualcos'altro per consentire a questo pacchetto di poter essere caricato su una piattaforma di learning come Moodle e di esporre direttamente tutte le sue caratteristiche su questa piattaforma, compreso eventualmente il tracciamento degli studenti, diciamo, cioè dove per tracciamento intendiamo diciamo, il tenere conto di chi è andato a guardare la risorsa, eventualmente quanto tempo ha impiegato, se ci sono dei test implementati all'interno del Learning Object, il risultato, la valutazione del test e così via dicendo. Learning Object serve anche a impacchettare un certo contenuto per poi essere depositato e riutilizzato all'interno di quelli che sono i cosiddetti repository, cioè diciamo, l'equivalente delle biblioteche per il Learning Object. Quarto modulo è quello attualmente in fase di svolgimento, brevemente ho indicato come modulo EOSHIP, qua si parla del sistema di certificazione delle competenze e quindi del sistema EOSHIP, di cui senz'altro adesso poi qua Pierfranco Rabotto potrà dire molto meglio di me. Infine, il modulo 5 è quello che comincerà tra, diciamo, un paio di settimane e vedrà i partecipanti del corso perfettamente operativi nella produzione di contenuti che poi saranno effettivamente contenuti veri, cioè non più prove di produzione, non più prove di utilizzo di strumenti, non più prove di manipolazione di materiale, ma reale produzione di learning object che poi saranno effettivamente e direttamente utilizzati in ambiente formativo, eventualmente alla fine di tutto questo grande percorso, anche proprio con gli studenti nelle scuole. Quindi questi erano gli obiettivi, sono gli obiettivi di questo corso, di questa attività di formazione che è in svolgimento. La partecipazione ad oggi di questa attività, questi sono dati che io ho preso per la sola piattaforma siciliana. Abbiamo 56 iscritti, di cui diciamo realmente frequentanti 32, nel senso che sono 32 persone che hanno fatto login nell'ultima settimana. Eventualmente qualcun altro probabilmente partecipa, diciamo, con ritmi un po' più laschi. E non frequentanti sono, possiamo dire a questo punto, che 12 persone probabilmente sono quelle che non frequenteranno più o frequentano così sporadicamente. Vedete, ho considerato 12 persone, non fanno login da oltre 20 giorni e quindi, diciamo, sono quelli che seguono più da lontano, diciamo così. Interessante, anche se non deve essere preso naturalmente così alla lettera, il discorso delle ore. Discorso delle ore, vedete che qua abbiamo dei dati molto differenti, con un massimo di un paio di giorni fa di 70 ore e poi a scalare sino ad arrivare naturalmente a quelli con numero di ore abbastanza modesto, anche se questo, diciamo, non è un criterio che verrà utilizzato veramente per la valutazione o per fare una qualche misura effettivamente dell'attività, è solamente uno degli indicatori possibili, perché essendo noi poi particolarmente affezionati all'idea della partecipazione, dell'apprendimento collaborativo, dell'apprendimento partecipato, dell'apprendimento che viene fuori dal fare le cose insieme sostanzialmente, allora quest'altro cosetta che stiamo vedendo, l'attività sui forum, ci piace anche di più come tipo di parametro da considerare, a parte il numero di ore, insomma, che è una cosa così piuttosto burocratica, no? Allora vediamo che sul forum Sloop Café, che è quello delle chiacchiere libere dove si parla di tutto, abbiamo in questo momento 1452 interventi. Sul forum del modulo, qua si sono, scusate, si sono un po', va bene, questo è sul forum, si sono uniti i numeri, non ci avevo fatto caso. Il forum di discussione del modulo 3 ci sono 2750, non sono 32.000, va bene, se il modulo 3 si è unito all'altro numero, voleva essere un trucco ma non ci sono riuscito. Il modulo 1 siamo a 1600, il modulo 2 siamo a 3265, quindi direi che sono numeri questi abbastanza significativi di quello che sta succedendo sulla piattaforma, cioè sono 50 persone, in realtà stiamo dicendo 30, che in questo momento hanno prodotto qualcosa come 7.000 interazioni sui forum, insomma decisamente direi che è significativo. Così come pure significativo, anche se un po' meno, perché adesso sarà poi nel modulo 5 che andiamo veramente in fase di produzione, sono i prodotti, diciamo, gli elaborati che sono venuti fuori sino a questo momento, che sono un corso di prova, l'abbiamo chiamato così, cioè è proprio un'istanza di Moodle dove tutti i docenti partecipanti hanno liberamente provato a mettere dei materiali, a scrivere, a inserire learning object prodotti in questi ultimissimi giorni per vedere l'interazione con learning object e con i video, altri materiali che si potevano inserire. Tutta una serie di, tutta la parte del modulo 2, di cui non ho in questo momento un riassunto perché non l'ho fatto io, lo faranno senz'altro i tutor del modulo 2 del METID, ma credo lì l'interazione è stata fortissima. Qua poi i partecipanti presenti potranno dire la loro su questa partecipazione al modulo 2. E poi abbiamo come elaborato i primi learning object che stiamo depositando su un database all'interno della stessa piattaforma Moodle, che credo in questo momento siano una decina. Momenti di criticità non sono poi stati proprio così critici, però sicuramente c'è stato inizialmente un problema di indisponibilità del server, questo va detto perché ha rallentato le fasi iniziali della nostra piattaforma. che già erano state rallentate dal fatto di avere a disposizione, cioè di partire con una settimana di ritardo rispetto a quella lombarda per un problema proprio banalmente proprio del server, della società che ci spartisce il servizio. E poi c'è stato un problema di linea, per cui siamo stati fermi un intero fine settimana, un lungo fine settimana che doveva essere quello dell'inizio dei lavori, e questo ci ha un pochettino all'inizio dato qualche problema. E poi c'è stato qualche altro giorno, sempre problemi di linea, cioè il server in realtà non ha mai smesso di funzionare, ma ogni tanto c'è un qualche strozzamento sulla linea che è linea Telecom. E diventa così lenta la navigazione che praticamente diventa impossibile. Dopodiché ho inserito le vacanze di Pasqua come momento di criticità, nel senso che le vacanze sono benedette, ma la ripresa è stata dura, ma dura e faticosa, devo dire. E vabbè, insomma, abbiamo superato, adesso poi dirò anche qualche cosa in particolare su questo. Poi c'è stato qualche piccolo, no, non grave, però tutto sommato temo che qualcuno abbia incontrato difficoltà e non le abbia espresse, perché può capitare anche questo. Io sollecito tutti a esprimere le difficoltà, a dire quello che non va. Qualche malfunzionamento del learning object, nel senso che qualche cosa l'abbiamo trovata velocemente. Alcuni learning object che sono perfettamente funzionanti sulla stragrande maggioranza delle installazioni di Moodle, su questa c'erano delle pagine che non si aprivano per problemi abbastanza banali dal punto di vista tecnico. E però, diciamo, qualche aggiustamento c'è stato anche da questo punto di vista, e quindi sicuramente ne andrà tenuto conto per la prossima edizione. E poi voglio citare questa cosa, difficoltà di collegamento, perché proprio degli ultimissimi giorni no, non ricordo adesso il nome, mi sfugge in questo momento, della Paola, è un partecipante di Lampedusa, tra l'altro una persona attivissima, vivacissima, che ci tiene moltissimo a partecipare ed è sempre veramente presente sulle attività online, che giusto in questi giorni, come dire, è ferma perché per l'ennesima volta nel corso dell'anno, siccome sta a Lampedusa, viene tranciato il cavo da qualche peschereccio che pirateggia a strascico, nonostante le vedette tunisine cercano di sparargli quando possono, ma non ce la fanno. E allora è senza DSL, quindi chiaramente come dire, si collega con un modem via linea telefonica normale, quindi a far venire giù un video, anche a navigare un learning object, non ce la fa. Quindi questo potrebbe essere un elemento anche di riflessione, potrebbe essere un elemento di criticità, anche se chiaramente un corso online, se non si riesce a frequentare online, certamente no, non ci possiamo fare moltissimo, diciamo, però un attimo va guardato anche questo aspetto. Gradimento del corso, per l'appunto, quando ci sono state queste difficoltà in seguito alla ripresa dalle vacanze di Pasqua, cioè a un certo punto la partecipazione proprio era, vabbè, durante i giorni di vacanza si capisce, praticamente zero o quasi. Poi mi aspettavo una ripresa. Per qualche giorno non è successo quasi nulla. Allora mi sono cominciato a preoccupare e ho scritto un messaggio esplicito, il cui soggetto era qualcosa che non va col punto interrogativo, e quindi invitavo un po' invitavo i partecipanti ad esprimere qualcosa, le cose che non andassero, insomma, sino a quel momento. In realtà questa cosa ha abbastanza rimobilitato tutti quanti. Ci sono state una serie di risposte, tutto positivo, tutto positivo, tutto molto bene, cosa che, diciamo, in qualche modo solletica l'ego del tutor, ma poi non è poi estremamente significativo nei confronti delle cose che possiamo correggere, no? Se va tutto bene, però non si partecipa, cioè in realtà non si capisce cosa allora si possa fare per migliorare, per cercare di partecipare. Poi invece qualcuno ha detto qualche cosa un po' più, cioè è entrato nel merito, ha detto alcune cose interessanti, per esempio, alcune cose che certamente io ho cominciato a implementare sulla stessa piattaforma, ma piccole cose, niente di straordinario, ma che possono essere molto utili. Per esempio, una piccola rubrica intitolata A che punto siamo? In maniera tale che se un partecipante del corso è stato lontano per un motivo X 2-3 giorni, non si ritrova all'ingresso della piattaforma a dover leggere una montagna di post sui forum, ad essere disorientato per capire cosa sta succedendo e cosa gli si sta chiedendo di fare sulla piattaforma. Quindi, senz'altro, questo piccolo, un piccolo suggerimento, ma devo dire molto utile. L'ho subito messo in opera una piccola rubrichetta A che punto siamo. E dopodiché abbiamo cercato di sistemare una raccolta degli oggetti che si vanno producendo in maniera tale che si abbia sempre un po' una cognizione, no, di quello che è lo stato del corso. E poi certamente, vedete, queste sono le direttamente riportate qui. Io domandavo se era il caso, per esempio, di organizzare delle sessioni in tempo reale, in comunicazione sincrona, di chat, di video chat o di videoconferenza, e qua, diciamo, i pareri erano un pochettino contrastanti, no, no, più che contrastanti, diciamo divisi. C'è chi dice sì, c'è grosso modo una metà di persone che dice sì, una metà di persone che dice no, vabbè, insomma, tutto sommato. Vedete, qua c'è qualcuno che cita video pigiama party che potrebbe essere divertente. Dico, in effetti si fa. E questa cosa io penso di cercare di farla, tutto sommato, anche se, diciamo, da parte di alcune persone potrebbe essere intesa in maniera poco corretta, ma per la mia esperienza, alla fine, quando si sta assieme in un ambiente, soprattutto se è sera, se è tardi, se è smesso di lavorare, ci si ritrova in una chat anche un po' a scherzare tra i componenti di un gruppo di lavoro e magari lì c'è anche qualche battuta sulle cose che si stanno facendo. Devo dire che il clima migliora molto e anche la partecipazione al corso migliora molto. Quindi, in definitiva, adesso siamo nel modulo 4, stiamo procedendo abbastanza bene. E ultimissimo punto di questa mia così breve presentazione, ecco, qualche suggerimento che può venire fuori osservando quanto sino ad ora è successo è questo qua, cioè incrementare le attività di tipo collaborativo, incrementarle ulteriormente. Noi ci puntiamo parecchio, ma abbiamo visto ancora una volta che sono quelle che effettivamente funzionano meglio. Stiamo parlando qua di apprendimento collaborativo. Avere sempre attenzione a fare chiarezza sullo stato di avanzamento dei lavori, perché questo consente alle persone di partecipare con più facilità e quindi anche con più immediatezza, inserirsi sempre in qualsiasi momento nel flusso di lavoro, così come avere sempre attenzione a manifestare chiaramente quali sono i lavori da fare. Cioè, di volta in volta noi, quando apriamo un modulo, cominciamo a strutturare un forum dedicato a quel modulo dove ci sono una serie di sollecitazioni. Però ecco, all'interno di quelle sollecitazioni poi sarà il caso di ogni tanto riassumere che cosa si sta chiedendo ai corsisti di fare proprio materialmente, quali sono i prodotti che vogliamo venire fuori. Manifestare i criteri di valutazione, questo naturalmente è una cosa che è sempre valida in tutti i momenti formativi, e che forse però in questo momento, forse perché ci troviamo molto tra colleghi, molto tra adulti, forse un pizzico questo l'abbiamo tralasciato. Io dico che per una prossima edizione, questo potrebbe essere un momento da precisare con maggiore esattezza, con maggiore dettaglio. E poi ho aggiunto quest'altro, ma dico è veramente un punto interrogativo perché è una funzione diretta della mancanza di collegamento da Lampedusa, di cui dicevamo poco fa. Eventualmente, col punto interrogativo, sarebbe il caso di prevedere un pacchetto da poter fornire anche per una fruizione offline. Questo magari, a livello di qualche contenuto pesante, di video o qualche cosa così, potremmo prenderla in considerazione per la prossima edizione. Bene, io per il momento ho finito. Se ci sono domande, sono a vostra disposizione.